Gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti i gastronauti e ai nostri radioascoltatori. Oggi parleremo di un argomento, come già abbiamo anticipato, molto importante. Parleremo dell'uso degli additivi nella ristorazione, nella cucina e dell'azoto liquido. Perché ne parleremo? L'anno scorso ci sono state moltissime polemiche a seguito della trasmissione a Striscia la Notizia e poi all'improvviso era caduto il silenzio. Ma a dicembre cosa è successo? È successo che durante appunto una trasmissione di Striscia la Notizia il sottosegretario Francesca Martini, che abbiamo con noi, che io saluto, buongiorno. Buongiorno. L'onorevole Francesca Martini, sottosegretario per il lavoro, la salute e le politiche sociali, ha firmato in diretta un provvedimento che proibiva l'uso degli additivi nella ristorazione e dell'azoto liquido, mentre non che potevano ancora circolare queste sostanze nell'industria alimentare. Bene, è caduto il silenzio, la ristorazione dice noi non ne sappiamo niente, gli addetti ai lavori dicono non ne sappiamo niente e noi abbiamo pensato appunto di fare questa trasmissione per capire qual è lo stato dell'arte. Ricordo che il numero verde anche ai nostri radioascoltatori che volessero intervenire, ristoratori o d'altro, 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Allora, di nuovo buongiorno all'onorevole Francesca Martini. Ci può raccontare qual è la situazione? Questo provvedimento è in vigore o ancora deve essere emanato? Sì, innanzitutto un grande saluto a tutti gli ascoltatori. E il provvedimento è stato firmato, deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi meramente si parla dei tempi tecnici, dopodiché diventerà una legge a tutti gli effetti. Che cosa mi ha spinto a firmare un provvedimento urgente di questo tipo? Infatti si tratta di un'ordinanza che poi verrà anche riversata in un provvedimento normativo stabile. E con i Carabinieri della Salute, i NAS, abbiamo portato avanti una serie di indagini per quanto riguarda l'impiego degli additivi alimentari nella ristorazione. E ci riferiamo, per essere chiari, a quella cucina molecolare che, destrutturando i cibi e quindi anche la loro struttura sul piano anche nutrizionale, aveva portato ad introdurre la chimica nei pasti delle persone. È chiaro che quando parliamo di chimica parliamo di qualcosa di molto delicato che viene controllato da normative sia a livello nazionale che internazionale. Vorrei ricordare appunto che tra le mie deleghe vi è la sicurezza alimentare quando parliamo di additivi parliamo di un qualcosa che, se non utilizzato in termini corretti, può diventare potenzialmente nocivo per la salute. E questo è l'obiettivo, è l'informazione dei consumatori e la tutela della salute dei consumatori. Per quanto riguarda questi additivi, ricordo che anche se ritenuto non nocivo, l'additivo non è consentito già oggi se non è necessario. Quindi pensiamo come l'industria alimentare utilizzi, per motivazioni supportate da ragioni di tipo tecnologico, l'utilizzo di alcuni additivi, ma con processi altamente controllati, tanto che vi sono degli esperti e dei responsabili rispetto a queste procedure. E anche se esiste un minimo apporto appunto di i prodotti che compriamo nei nostri supermercati, ricordiamo che questi prodotti sono sempre portati in etichetta. Mi permetta di un'osservazione. Durante l'indagine che era stata fatta dai NAS, erano stati sequestrati dei flaconi di Textura, di questo prodotto, dice questa azienda che appunto si chiama Textura Spagnola, ma poi era stato tutto disequestrato. A sentire la ristorazione, addirittura erano stati rispediti indietro questi flaconi che erano stati sequestrati. Quindi cos'è successo? Esattamente no, sono state fatte delle indagini microbiologiche e il problema principale era un'assoluta inadeguatezza dell'etichettatura di questi prodotti. Cioè questi prodotti, come tutti i prodotti, devono avere un'etichettatura che rispetta le normative a livello europeo. Quindi questo controllo e questo sequestro che abbiamo fatto, ovviamente i campioni li abbiamo valutati e analizzati, non si tratta di veleno, prodotti che non possono essere utilizzati nella ristorazione, perché nessuno si può garantire che non vengano utilizzati realtà distorta. Quindi non, nessuno ci può garantire, intanto non vengono dichiarati prima di tutto quando viene presentato il piatto nel menù, e poi non ne vengono dichiarate le misure con cui sono utilizzati. Quindi va da sé che un cittadino deve avere il diritto di mangiare cose sane e di cui conosce il contenuto, anche al ristorante, soltanto quindi per le materie prime che utilizza a casa sua. E l'uso degli additivi nella preparazione dei pasti non rientra, tranne alcune isolate eccezioni, sono i lieviti, gli addensanti, gli emulsionanti che si usano nella preparazione dei dolci e dei gelati, anche diciamo così nel gelato artigianale e nella tradizione della ristorazione. E quindi non si può affrontare, se non con la dovuta risolutezza a mio avviso, una tematica per evitare proprio impropri di consapevoli situazioni da parte degli operatori, che possono oltretutto non avere assolutamente consapevolezza nemmeno dell'utilizzo di alcune sostanze gassose. Io vorrei ricordare che proprio recentemente in Francia un operatore della ristorazione ci ha rimesso le braccia utilizzando queste bombole di azoto per la preparazione dei pasti. Quindi sono anche problemi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Bene, io la ringrazio perché lei è stata chiarissima, quindi ora abbiamo sicuramente così modo di discutere su quanto lei ci ha detto e sicuramente di informare la ristorazione che è attenta a questa trasmissione, sicuramente avremo degli interventi. Quindi io la ringrazio, prendiamo nota di tutto quello che lei ci ha detto, poi ne discuteremo. Grazie e buongiorno. Eccoci di nuovo a parlare di additivi, di azoto liquido e di tutto quello che ne consegue. Abbiamo sentito dalla voce dell'onorevole Francesca Martini che saranno vietati, l'uso nella ristorazione sarà vietato, quindi finalmente c'è chiarezza, anche se sicuramente questa decisione lascerà così uno strascico nuovo di polemiche, comunque ora sappiamo. Sentiamo Maurizio da Milano, radioascoltatore. Pronto? Sì, Maurizio, prego, parli. Sì, buongiorno. Dunque, io ho un ristorante e mi stavo chiedendo, scusi solo un attimo, ma cosa fate? Sto prendendo un cane davanti a me, ma cosa state facendo? Scusi, guardi, allora rimanga in linea che noi dobbiamo andare avanti, o parla o passo la parola ad altri. Pronto, vabbè, Maurizio aveva un cane. Allora sentiamo, abbiamo con noi Dario Bressanini, docente universitario di chimica, grande esperto anche di cibo, avrà sentito sicuramente le parole dell'onorevole Francesca Martini che ci ha detto appunto che il provvedimento è pronto, sarà presto in vigore, saranno vietati sia l'uso di additivi che di azoto liquido. Bressanini, con te parlerò di additivi, poi con Davide Cassi che è in linea, altro professore dell'Università di Parma, parleremo di azoto liquido. Cosa ne pensi, Dario? Sì, prima di tutto ciao Davide, buongiorno agli ascoltatori. Allora, io sono molto curioso di leggere questa ordinanza perché mi sembra veramente difficile da sostenere a livello legislativo una cosa di questo genere, per il semplice motivo che questi additivi, tra l'altro, di cui parlava proprio il sottosegretario, lei ci diceva si sono sempre utilizzati nella ristorazione alcune classi di additivi, e citava i gelificanti e per esempio gli addensanti. Ecco, questi sono proprio le categorie che normalmente si usano anche nell'alta ristorazione e in queste in questi ristoranti come quello di Ferran Adrià e altri, per cui non sono una categoria a parte. Semplicemente io alcuni gelificanti, la farina di semi di carrube è E410, si è sempre utilizzata per fare gelati, così si può, anche il consumatore normale lo può comprare nei negozi, agar-agar nei supermercati. Altri gelificanti, ma sempre della stessa categoria, sempre, quasi sempre ricavati da alghe o da comunque altre piante o vegetali, magari sono un po' più difficili da trovare, non si trovano al supermercato, ma rientrano assolutamente nella stessa categoria. Mi sembra difficile che si possa sostenere in ordinanza che ad esempio l'E406 agar-agar, che ad esempio i vegetariani usano per fare la gelatina, quindi per preparare alcuni preparati come la panna cotta, l'E407 invece non si può utilizzare, il motivo scientifico a me è piuttosto oscuro. Bene, rimani con noi perché poi continueremo. Sentiamo Giovanni da Milano, radioascoltatore, buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolini. Senta, io vorrei che si specificasse bene, perché anche nella precedente trasmissione sullo stesso argomento se ne è parlato molto di sfuggita, degli aromi naturali e non. Qual è la differenza? Perché li troviamo spessissimo in tutti i prodotti nei nostri supermercati, nella tabella degli ingredienti, spesso in fondo. Io vorrei capire se è cambiata recentemente la normativa, che cosa si intende esattamente per aromi e quali sono aromi e aromi naturali, quali sono dannosi per la nostra salute. Grazie. Giovanni, dunque, gli aromi sono una cosa diversa. Ora poi magari durante il corso della trasmissione daremo la risposta, però prima volevo precisare alcuni punti che così ci ha detto l'onorevole Francesca Martini. Poi magari torneremo anche agli aromi, anche se questo, diciamo, sarebbe anche corretto fare una trasmissione ad hoc, però vedremo di rispondere. Allora, abbiamo con noi il professor Cassi dell'Università di Parma, fisico dell'Università di Parma, è un grande esperto sicuramente anche lui di cibo, di cucina e di azoto liquido, al quale la prima domanda che faccio è questa. Hai sentito, caro Davide, che viene bandito l'uso nella ristorazione di azoto liquido e quindi anche nelle gelaterie, perché ormai c'erano diverse gelaterie che facevano gelato appunto con l'azoto liquido perché è pericoloso. Vorrei da te una risposta su questo. Ma guarda Davide, ciao innanzitutto, saluto tutti. Io sono molto molto molto perplesso di fronte a questa dichiarazione di pericolosità, perché tutto può essere pericoloso. Ti ricordo che in cucina si usano coltelli che potrebbero anche tagliarti un dito, e questo succede spesso ai cuochi. Si usa l'olio bollente, che è molto più pericoloso dell'azoto liquido, l'acqua bollente, la pentola a pressione, potrei citarti mille cose. È chiaro che quando non si sa utilizzare qualcosa, questo può essere sorgente di pericoli, però a questo punto basta insegnare, basta rilasciare un patentino per l'utilizzo, per esempio. Io avrei molte proposte ben più costruttive che non la bieca proibizione. Tu sai che hai visto quando usiamo l'azoto liquido, hai visto con che naturalezza un cuoco può apprendere ad utilizzarlo. Capisci anche quali possono essere i pericoli. Io ho seguito per anni le pochissime statistiche di incidenti che si sono verificati con l'azoto liquido, sono veramente cose limite e irrisorie. Anche un caso che è stato citato recentemente in Germania, di un'esplosione che ha portato via qualche dito alla mano, adesso non ricordo, a un cuoco. Non è stato un utilizzo in cucina dell'azoto liquido, questo tizio stava cercando di conservare l'azoto liquido all'interno di un contenitore tenuto ermetica. Ora, sappiamo tutti che a causa dell'evaporazione alla fine si arriva ad un'esplosione, ci sono anche video su YouTube di ragazzi che giocano con le bottigliette dell'acqua riempite d'azoto liquido. Ora, se si insegna che non bisogna chiudere l'azoto liquido in un recipiente tenuto stagno, si evitano tutti questi incidenti, esattamente come si insegna a un cuoco a non mettere il dito nell'olio o a non tagliarsi le dita quando affetta le verdure. Capisci che a questo punto, siccome ci sono incidenti automobilistici, proibiremmo le macchine. Siccome si può scivolare sugli sci e finire contro una pianta, dobbiamo proibire di sciare. Sembra veramente eccessivo. Bene, mi sembra che questo. L'incidente di cui ha parlato fosse proprio quello di cui ha fatto riferimento l'onorevole Martini. Volevo leggere un sms: ennesimo provvedimento demagogico dettato da diffusa ignoranza scientifica e anche gastronomica mediata dall'opinionismo televisivo. Questa è, io ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Voglio tornare da Bressanini. Hai sentito questa richiesta di questo radioascoltatore tra aromi naturali e aromi artificiali? Sì, ho sentito. Prima di tutto volevo dire che concordo completamente con quello che ha detto il collega Davide Cassi. L'olio bollente è assolutamente molto, molto più pericoloso dell'azoto liquido. L'azoto liquido, noi chimici, lo si usa spessissimo con gli studenti nei laboratori didattici. A volte si fa pure diciamo, il gelato con l'azoto liquido. È molto, molto più pericoloso una pentola d'olio bollente. Comunque, riguardo gli aromi non seguono una legislazione europea diversa. Perché non sono additivi, sono appunto aromi. La legislazione distingueva tra aromi naturali, cioè aromi, cioè sostanze chimiche che avevano un'origine, diciamo, nella natura, anche se non necessariamente deve essere, diciamo, l'origine è quella che il consumatore poi si aspetta. Ad esempio, se c'è scritto aroma naturale di fragola, vuol dire che è una sostanza estratta in qualche modo da qualche prodotto, da qualche vegetale, ad esempio, ma non necessariamente dalla fragola. Mentre c'erano poi gli aromi naturali identici e gli aromi artificiali. Beh. Adesso la legislazione è cambiata, sta cambiando in questi anni, e per cui non si distinguerà più tra aromi artificiali e aromi naturali. Quello che, che vorrei dire però è che, diciamo, dal punto di vista tossicologico non c'è nessun motivo di considerare, diciamo, una sostanza chimica diciamo, presente in natura più o meno pericolosa, più o meno benefica di una sostanza sintetizzata in laboratorio. Questa, la legislazione europea è molto chiara, cioè la distinzione è fatta, diciamo, per, diciamo, perché il consumatore può decidere, diciamo, se acquistare o meno in base a questa, insomma, a un'indicazione. Bene. Può essere, diciamo, magari un'indicazione di qualità di un prodotto, ma non certo un'indicazione tipo salutistico o tossicologico. Grazie, grazie Bressanini, si sentiva anche male, comunque grazie. Sentiamo Roberta da Pisa, una radioascoltatrice, buongiorno. E buongiorno a lei. Posso parlare? Sì, certo. Senta, io voglio dirle questa mia esperienza. Un amico che faceva il cuoco ha fatto davanti a me questo esperimento. Aveva una bottiglia di aromi, cosiddetti aromi che vengono usati da pasticceri, da tante persone per produrre tanti prodotti. E ne ha versato un dito in un bicchierino di plastica davanti a me. Il bicchierino era appoggiato su un piano di polistirolo. Dopo pochi secondi, io penso forse un minuto neanche, il bicchierino si è rotto e il polistirolo cominciava ad essere consumato. Allora io mi sono chiesta che cosa sono questi aromi, e in tutti i prodotti in cui ci sono scritti aromi io adesso tendo a non comprarli, ad essere impaurita, perché se effettivamente hanno questa efficacia cosa faranno al nostro corpo? Bene, sentiamo Cassi cosa ne pensa di quanto detto dalla radioascoltatrice. Guarda, io adesso non conosco esattamente di che aroma si tratta, però mi sembra un tipico caso di una sostanza usata a concentrazione molto alta. Ti faccio un esempio per tutti: nella Coca-Cola è contenuto acido ortofosforico. Se lo usiamo a concentrazioni altissime corrode quasi tutto quello con cui lo mettiamo in contatto. Semplicemente nella Coca-Cola è diluito a sufficienza per riuscire a rendere piacevole l'effetto della bibita senza procurare effetti collaterali. Quindi la concentrazione, la dose, lo ripetiamo ancora una volta, sono parametri importantissimi. Molto probabilmente su quell'aroma ci sarà stato scritto utilizzare a basse concentrazioni oppure qualche indicazione più specifica, quindi non è che ci devono spaventare questi effetti. Bisogna semplicemente conoscere, infatti lo ribadisco ancora una volta, la parola giusta sarebbe istruzione piuttosto che non proibizione. Bene, quindi tu dici che sicuramente il discorso così proibitivo è veramente, come posso dire, inutile, cioè nel senso inutile, invece si potrebbe costruire dando delle istruzioni. Ma io ricordo anche che quei prodotti poi erano stati sequestrati, avevano avuto dei problemi perché non avevano la traduzione in italiano, ma poi lo vedremo con la persona che li distribuisce in Italia. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata cari gastronauti e radioascoltatori, stiamo parlando di additivi e di azoto liquido che, come ha annunciato l'onorevole Francesca Martini, saranno vietati, l'uso sarà vietato nella ristorazione. Bene, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Ebbene, in una precedente trasmissione su questo argomento, quando ci fu il sequestro di questi prodotti, avevamo interpellato in AS nella persona del tenente Dario Praturlon, vicecomandante del reparto analisi del comando dei carabinieri, appunto per la tutela della salute. Bene, in quell'occasione Dario Praturlon, se non erro, ci aveva comunicato che erano stati dissequestrati quei prodotti che erano stati bloccati nella ristorazione perché non erano nocivi. Bene, oggi invece di fronte a questo provvedimento che è stato varato, appunto a firma dell'onorevole Francesca Martini, sappiamo invece che, diciamo, le opinioni sono cambiate. Tenente Praturlon, cosa è successo? Buongiorno. Buongiorno. Beh, la situazione, in realtà il dissequestro non era stato effettuato per quanto riguarda il dissequestro legale, ma era stato un ritiro da parte dell'azienda in modo volontario, perché si erano evidenziate delle irregolarità amministrative chiare, per cui l'azienda aveva manifestato l'intenzione di ritirare il prodotto al commercio. A questo punto, con l'ordinanza che dispone il divieto di utilizzo di sostanze additivi che hanno dei limiti di impiego, e il prodotto continua a non essere regolare, non più dal punto di vista solo dell'etichettatura e della confezione, ma anche da un punto di vista formale di contenuto e di modalità di impiego. Bene, e ora poi sentiremo anche, diciamo, il distributore in Italia di questi prodotti. Prima sentiamo Paolo dalla provincia di Macerata. Buongiorno Paolo. Ah, buongiorno signor Paolini. Io adesso seguo la trasmissione come ogni volta, la seguo la mattina mentre vado a fare spesa. Io cucino qui a Civitanova, un ristorante, utilizzo l'azoto, diciamo così, giusto per piacere, perché ho fatto anche dei corsi. Ho un grande collega, Terry Giacomello, non so se conosce, lui lavora con Ferran, è stato diverso tempo lì. E niente, praticamente in Spagna viene utilizzato frequentemente l'azoto. Io lo utilizzo a un contenitore a norma, l'ho pagato 1000 euro, quindi voglio dire da una grande multinazionale, come lo utilizzano, voglio dire, i medici, perché caricano direttamente, lo portano, quindi con contenitori a norma. Molto semplicemente faccio un sorbetto, vi posso assicurare, perché qui Cassi lo sa benissimo, il dottor Cassi, che praticamente il sorbetto abbiamo solamente frutta, io prendo, frullo un'arancia ad esempio, ci metto acqua e zucchero, vado con l'azoto in diretta e faccio un sorbetto puro, sentiamo la frutta pura, rispetto ai miei colleghi ad esempio qui gelaterie che utilizzano addensanti, zuccheri modificati, grassi idrogenati, cioè i sorbetti ad esempio che girano dentro le macchine. Bene. Che le hanno Bene. Tutti, dovrebbero sequestrare. Bene, grazie Paolo, abbiamo la sua testimonianza importante, ma sentiamo anche Daniela dalla Spezia. Buongiorno Daniela. Sì, buongiorno. Prego. Senta, io volevo segnalare questa cosa, io sono una mamma che quando vado a fare la spesa al supermercato mi porto dietro un foglietto che ho scaricato da internet, dove praticamente trovo una classificazione di tutte queste sostanze. E praticamente sono divise in coloranti, conservanti, edulcoranti, eccetera, e sono classificate in base a prodotto non tossico, prodotto che può dare intolleranza, sì, prodotto sospetto oppure addirittura prodotto pericoloso. E insomma la trovo una cosa utile, sarebbe Bene. Giusto che... Grazie, grazie Daniela Dalla Spezia. Mi spiace che doveva intervenire una dottoressa, una biologa da Roma che aveva chiamato, poi è caduta la linea con alcune osservazioni che erano veramente inerenti a questa trasmissione, ma devo dire che sono un po' stupito perché vedo una carenza di interventi che riguardano gli additivi, specialmente da parte di molti chef italiani, quindi sicuramente se ci sono delle cose da dire credo che questo sia anche il momento di dirlo, visto che sta per essere varato un provvedimento. Comunque sentiamo innanzitutto, poi sentiremo il presidente delle SOST, che è un'associazione che raggruppa i molti ristoratori italiani, cosa ne pensa in proposito. Ma ora sentiamo Guido Bruzzo, che è il distributore di Textura in Italia. Buongiorno Bruzzo. Buongiorno a lei, Saurini. Allora, lei avrà sentito tutto, cosa c'è da dire? Sono curiosissimo anch'io, come il signor Bressanini, di vedere questa ordinanza, tant'è che è un mese che la faccio chiedere al Ministero, ma il Ministero non ce la fa vedere, ma non la fa vedere, non è che non la fa vedere a me, non la fa vedere a un'associazione di categoria che la chiede. Ora, in merito a tutto quello che è stato detto, io potrei leggere alcune cose, compreso il verbale di sequestro del NAS che riguarda un prodotto che è stato sequestrato e che sembra che adesso non potrà più essere usato. Mancanza delle informazioni in lingua italiana, dice il verbale. Potrei leggere l'etichetta, ma preferisco leggere il testo della legge 209, che dice che le informazioni possono essere riportate in lingua italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti. Io vorrei fare due puntualizzazioni. I ristoratori sono degli operatori professionali e oggi si vedono limitata la loro operatività. Poi ci sono dietro anche gli agricoltori. Come diceva una signora prima, ci sono in circolazione dei prodotti che non hanno niente di frutta e il ristoratore di Ascoli invece ci ha detto come fa un sorbetto alla frutta. Io faccio anche l'agricoltore, anzi sono nato agricoltore, e vorrei vendere a qualcuno le mie mele per fare i sorbetti. Invece i sorbetti alle mele si fanno con dei prodotti che hanno fra gli ingredienti zucchero, destrosio, glucosio disidratato, maltodestrine, grassi di cocco idrogenati, acidificante, acido citrico, amido di mais modificato, addensanti E412 E466, aroma, emulsionanti E477 E471, proteine vegetali, caseinato, antiagglomerante E341, stabilizzante E451, coloranti E104, E132, E141. Dove sono le mie mele? Bene, e lo chiediamo al tenente Praturlon, cosa ne pensa di quanto lei ha sostenuto su così altri prodotti in circolazione? Io non è che posso... Non è che posso dare una definizione, un parere sui vari ingredienti additivi che vengono utilizzati e nella più o meno variegata ricchezza in prodotti biologici o naturali. Noi ci atteniamo alle indicazioni di legge dove ci sono degli ingredienti che sono ammessi, liste quindi positive, liste negative e ingredienti che possono essere utilizzati, quali gli additivi, a volte in dosi massime consentite. Noi purtroppo, o per fortuna, dobbiamo attenerci a una regolamentazione, a un quadro normativo che impone dei divieti o delle indicazioni in lingua italiana, nel caso della lingua italiana, ma se i prodotti che sono contenuti all'interno di un prodotto e sono più o meno naturali e comunque sono indicati in etichetta e sono nelle dosi consentite, poi la scelta purtroppo, o come dico, per fortuna, deve essere lasciata al consumatore finale. E penso che l'ordinanza vada proprio, al di là di vari aspetti e varie visioni diverse, vada verso la dazione al consumatore di una maggiore consapevolezza di ciò che va a consumare. Bene, e voglio leggere un paio di sms perché sono tantissimi che diciamo che si dividono. Uno dice: fanno benissimo a vietare gli esperimenti degli apprendisti stregoni in cucina. Qual è il problema se il gelato si continua a farlo come si è sempre fatto? E poi un altro davvero così divertente, se vogliamo, che dice: buffa la dicotomia tra Zai e Lamartine, mentre uno gira il mondo promuovendo il Made in Italy e riuscendo a far vendere il McItaly nel tempio degli hamburger, l'altra cancella la cosiddetta cucina molecolare dopo aver attentato a piatti a base di cavallo molto radicati in tutta Italia. Bene, come dicevo, sono tanti. Ma sentiamo Rino da Salerno, un altro radioascoltatore. Buongiorno Rino. Buongiorno a lei e la ringrazio per la trasmissione, signor Paolini. Prego. Il problema è che credo che noi italiani, a parte l'azoto, ci sono tanti altri prodotti che siamo abituati a vederli belli, chiari, di un colore completamente diverso, perché con aggiunta di additivi, lasciamo stare quali, ormai siamo abituati a vederli in quel modo, quindi poi vederli diversamente nel caso di un consumatore, a parte la ristorazione, abbiamo forse difficoltà a scegliere. Quindi mi sente? Sì, la sento. Quindi su questo non c'è molto controllo, perché in questi prodotti basta leggere negli ingredienti, si trova acqua o al limite sale, zucchero, ma gli altri additivi non ci sono. Bene, mi sembra che lei si sia risposto già, si sia dato la domanda e si sia risposto. E il problema è un problema molto grosso, perché sicuramente ci sono quando c'è la destrutturazione avvengono dei cambiamenti che sicuramente sono molto ma molto in profondità. Quindi la sua osservazione, non c'è dubbio, è in linea con quanto detto. E sentiamo un altro, un sms: d'accordo completamente con Cassi, no alla proibizione sia l'istruzione, basta finta ipocrisia, ci vuole cultura. Bene, sì, però ormai se c'è un divieto dell'uso dell'azoto liquido, mi credo che l'istruzione non sia più necessaria. Bruzzo, un'ultima domanda: voi a questo punto aspettate questo provvedimento, che sembra che già sia stato scritto e, come detto, per la prima volta è stato annunciato veramente che entrerà in vigore, e quindi cosa pensate di fare? Ma guardi, secondo me c'è stata anche un po' di confusione tra l'ordinanza e la legge. In ogni caso l'ordinanza andrà pubblicata e poi avrà un tempo tecnico per l'entrata in vigore, e noi durante questo tempo tecnico ci studieremo questa ordinanza. Io ribadisco, come si è sempre fatto il gelato, forse l'ascoltatore che ha parlato prima non lo sa, io preferirei continuare a consumare il sorbetto di limone anziché il sorbetto al limone, e se qualcuno dei nostri clienti ci mette un po' di gomma xantato, un po' di gomma di guar per stabilizzarlo, non penso che faccia male a nessuno, visto che nel caso di cui l'ho citato prima la mela non c'è. È meglio che ci sia la frutta, e questo è meglio anche per i produttori agricoli, è meglio per le nostre esportazioni, è meglio per il nostro turismo. La gente deve essere rassicurata quando va al ristorante e non terrorizzata. Bene, io la ringrazio, e devo dire che arrivano moltissimi SMS sugli aromi. Ad esempio, uno: quello che succede a me con le fialette di aromi che si trovano nei supermarket, limone eccetera, corrodono il contenitore in plastica del frullatore, poi tante altre. Quindi gli aromi sicuramente sono all'attenzione di moltissimi consumatori, vedremo magari di fare una trasmissione ad hoc. Il gastronauta. Eccoci sul finale a parlare di additivi di azoto liquido. Come abbiamo sentito dall'onorevole Francesca Martini, saranno vietati, sarà vietato l'uso assoluto nella ristorazione. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Roberto da Roma. Buongiorno Roberto. Buongiorno, io sempre più spesso nei supermercati trovo alimenti confezionati in atmosfera protesta. Ho letto, mi sono documentato, di una ricerca del 2002 fatta dall'INRA che sembra che questi alimenti prolunghino la conservazione, questi additivi prolunghino la conservazione degli alimenti, ma distruggono le vitamine e altre sostanze naturali. Volevo sapere se c'era qualche altra ricerca o qualche cosa di nuovo. Bene Roberto, ora abbiamo con noi Patrizia Restani, docente di chimica degli alimenti in statale a Milano, che abbiamo avuto ospite in una passata trasmissione proprio sull'argomento, che potrà dare anche risposta a questo. Però prima di tutto io chiedo alla professoressa Restani se è al corrente di questo provvedimento appunto varato dall'onorevole Francesca Martini di divieto assoluto dei additivi e dell'azoto liquido nella ristorazione, cosa ne pensa? Allora, io devo premettere che quando è stata fatta la famosa trasmissione di Striscia la Notizia ero all'estero e quindi non ho visto la trasmissione. Ne ho quindi sentito parlare al mio ritorno e non mi è esattamente chiaro quanto questo divieto sia assoluto, perché credo che un divieto assoluto porrebbe anche dei problemi pratici, tanto per intenderci, un divieto assoluto di additivi vorrebbe dire non usare neppure pectine per fare marmellate o cose di questo genere. Ecco, c'è una distinzione che ha detto proprio stamattina l'onorevole Martini a noi in apertura di trasmissione, che è solamente nella ristorazione, non per uso industriale. No, questo l'ho capito perfettamente. Io sto parlando di un cuoco che possa magari pensare di mettersi a fare una confettura nella sua cucina e che in questo modo non potrebbe utilizzare neppure la pectina, che è un prodotto assolutamente prodotto normalmente per estrazione da frutta, e quindi un divieto assoluto io credo che porti qualche problema pratico. Ovviamente andrebbe poi visto il tutto nel merito, andare un attimino a vedere categoria per categoria. Certamente risulterebbe assolutamente improponibile il fatto che un cuoco decida di mettere dei nitrati nella carne perché magari è un po' invecchiata e comincia a scurirsi. Viceversa, un uso di vitamina C che per caso può trovare nel piatto perché aggiunge del limone, ecco, vorrei vedere come poi di fronte ad un'analisi di vitamina C di un piatto si possa decidere se questa è di origine naturale o invece viene, non so, appunto aggiunta. Credo che bisognerebbe fare un po' di distinguo, ecco, bisognerebbe chiarire esattamente cosa questo divieto veramente porti. Ecco, rimanga con noi, sentiamo Ferruzza da Roma, buongiorno, una radioascoltatrice. Sì, buongiorno, salve. Senta, no, intervenivo più che altro per il problema dell'azoto liquido. Allora, io sono una biologa cellulare, per cui utilizzo l'azoto liquido normalmente durante il mio lavoro, perché congeliamo le cellule. Quello che io non capisco, che mi lascia un po' perplessa, è il motivo per cui viene vietato. Pericolosità. Sì, ho capito, però sono perplessa perché ogni volta che noi riceviamo l'azoto liquido è ovvio che noi dobbiamo avere una scheda guida di sicurezza, perché ormai la legge impone che si conoscano le sostanze che si usano, quindi l'azoto liquido è una sostanza diciamo pericolosa, per cui è accompagnata sempre da una scheda di sicurezza. Quindi se noi abbiamo una scheda di sicurezza e conosciamo l'elemento che stiamo utilizzando, non capisco dov'è il problema della pericolosità. Ora, che si allarghi, è ovvio che si allarga, perché se io consegno azoto liquido a un ristoratore devo dargli anche la scheda di sicurezza, e quindi su quella, per legge, noi abbiamo tutte le indicazioni su come utilizzarlo. Bene. Quindi è un po' una contraddizione in realtà. Bene. Il fatto di vietare l'uso. Sì, infatti anche il professor Cassi aveva parlato di istruzione, quindi di istruzioni da fornire più che di pericolosità. Dice, la pericolosità si batte con le istruzioni che si devono fornire. Grazie, la ringrazio. Ma io vorrei tornare alla professoressa Restani per la domanda che ha fatto questo nostro radioascoltatore, questo Roberto da Roma, non so se l'ha ascoltata, sulla conservazione degli alimenti, e parlava di uso degli additivi per la conservazione di questi alimenti in sottovuoto, e così chiedeva se possono essere nocivi o meno. Allora, se ho capito bene, l'ascoltatore parlava non tanto del sottovuoto quanto dell'atmosfera. Sì, atmosfera modificata, mi scusi, sì, è vero. Ecco, atmosfera modificata. Sì, certo. Allora, ovviamente l'atmosfera modificata è semplicemente un accorgimento che si utilizza per alcuni alimenti che hanno una breve vita, come per esempio le insalate. In alcuni casi si usa in realtà anche per salumi, semplicemente per evitarne le alterazioni. Quindi non riesco bene a capire che tipi di pericoli ci può vedere. Ecco, bisognerebbe come sempre andare un attimino più in specifico, certo. Però normalmente queste sono delle miscele di gas a basso contenuto di ossigeno, proprio per evitare ossidazioni e quindi trasformazioni dell'alimento, che insomma non sarebbero né piacevoli a vedersi e insomma in qualche modo potrebbero anche essere pericolose. Quindi nel caso dell'insalata serve proprio per evitare che appassisca in breve tempo. Quindi stiamo parlando di quelle confezioni, appunto, che ormai stanno andando veramente fortissimo, che la gente non si rende conto quanto costano, se facesse qualche conto, e poi le devono, certo, anche lavare. Ed è la cosa più incredibile, che a quanto è stato riscontrato sono quelle che sono acquistate sicuramente da chi invece dovrebbe magari fare dei risparmi sulla spesa, perché non ha molti soldi da spendere. Vabbè, questa è una mia considerazione che va un po' fuori, però abbiamo con noi finalmente uno chef, perché, e devo dire che, lo ripeto, sono sconcertato dal silenzio di molti chef che usano gli additivi, perché c'era modo appunto di discuterne e di parlarne e non di rifugiarsi nel silenzio. Ma comunque ognuno sceglie la strada che vuole. Ezio Santin è presidente dell'Associazione delle Soste, che raccoglie circa 50 tra i più importanti ristoranti in Italia. Ezio, tu avrai saputo, hai sentito, non so se hai sentito anche stamattina, ribadito dall'onorevole Francesca Martini, che uscirà a breve, ma è già pronto, un provvedimento che vieta l'uso degli additivi e vieta l'uso dell'azoto liquido nelle cucine dei ristoranti. Vorrei sapere cosa ne pensi. Ciao Davide, buongiorno agli ascoltatori. Bisogna secondo me fare le cose ben fatte e non affrettate e non senza pensare bene a quello che si deve fare. Un additivo chimico in cucina fa venire i brividi. È chiaro, no? Però un prodotto ricavato, un addensante per esempio ricavato da alghe, da cereali in genere, non può far male alle persone. È sempre stato usato, si usa sempre. Certo, se noi usiamo in una cucina buona, importante, usiamo un prodotto di sintesi, perché dobbiamo dare un gusto, dobbiamo dare addensare, dobbiamo dare qualche cosa per abbreviare i tempi di lavoro, io sono contrario. Ecco, però, prego, scusa. No, io dico, tutto andrebbe fatto con un'accurata analisi dei prodotti prima che essi vengano messi in commercio, e regolamentarne l'uso. Questo invece non è stato fatto prima, e quindi è chiaro, l'uso di maltodestrine per esempio non può essere dato in mano a un ragazzino, a un comi di cucina, deve essere usato, se si può farlo, deve essere usato dallo chef, perché ne sa usare il quantitativo giusto, come del resto tutto. Per esempio come si dice, l'azoto liquido. Ecco, l'azoto liquido è un prodotto che si può usare con una certa cura, è chiaro. Io faccio friggere a un comì in un pentolone di 2-3 litri di olio, faccio friggere la roba e questo inavvertitamente si rovescia il pentolone di olio caldo sopra le sue gambe, deve andare all'ospedale. L'uso, in cucina c'è anche l'uso del gas oltre i coltelli, che vabbè, quello sarebbe un po' ridicolo, ma quindi non è un pericolo, va usato con istruzioni, con le istruzioni e l'esperienza. Bene, grazie Ezio, io ringrazio anche la professoressa Patrizia Restani, siamo in conclusione. Ebbene, avete sentito, aspettiamo questo provvedimento, aspettiamo cosa ci sarà scritto, ma mi sembra che sia stata molto chiara l'onorevole Francesca Martini, quindi sul divieto di utilizzo. Quindi credo che, non so, ancora non è in vigore, ma sarà presto in vigore, ed è veramente curioso cosa succederà nelle cucine. Chi fino ad oggi ha utilizzato sia l'azoto liquido e l'altro, quindi dovrà interrompere l'utilizzo di questo. Quali conseguenze porterà sui piatti non lo so, perché nessuno è intervenuto per potercelo raccontare. Bene, io vi saluto, vi auguro un buon weekend, vi do appuntamento domani alle 12:15, vi do appuntamento ogni giorno alle 11:05 e alle 23:05 con la pillola, e appunto vi auguro di nuovo buon weekend.